Faccia di ai se la panda non mi dice tanto, a dormire non ci vado più, seduta Mergellina proprio sotto il tuo balcone, mi trova la mattina consumato di passione, fammi dormire, ai mari, solamente se mi dai un bacio, ma dormendo non mi sveglio più. Data la luna a mare chiaro, tutti i cuori felici riposano, io soltanto sto sveglio e mi dispero, per mari più non posso dormire. Fammi dormire, oi mari, oi mari, con che notti che non chiudo un occhio, non mi vedi come son ridotto, che t'aggia di, è così, è così. Quando non mi dici t'amo, a dormire non ci vado più. Seduta a Mergellina proprio sotto il tuo balcone, mi trovo alla mattina consumata di passione. Fammi dormire, oi marini, oi marini, solamente se mi dai un bacio, ma dormendo non mi sveglio più. Mi trova la mattina consumato di passione. Fammi dormire, oi marì, oi marì.